Friuli nel mondo, 87esima trasmissione dedicata agli emigrati. Canzoni popolari del Friuli. Freschezza e semplicità sono le tipiche caratteristiche di queste canzoni friulane moderne, nelle quali il sentimento della nostalgia è espresso con toni accorati e semplici. Giovani musicisti nostrani, pur con gli inevitabili ritmi moderni, hanno saputo assai bene mantenersi aderenti alla tradizione melodica del Friuli e allo spirito semplice e gentile della nostra gente. Canzoni popolari, quindi, quelle che vi presentiamo, cari amici in ascolto, ispirate all'amore e alla nostalgia. Siamo certi che il complesso tipico friulano, diretto da Bruno Degano, saprà ravvivare in voi il ricordo della terra natia e del focolare domestico. Peppino Lodolo vi canterà ora Sere di Lune, di Degano e Lodolo. Parfanasi l'amor da stella lune, ogni storia d'amor